ever was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. I nomi delle cose. La trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Apriamo con un appuntamento importante che ci riguarda tutte, e cioè la difesa del 22. È la stanza di tutte noi e la sede da cui siamo partite per tante manifestazioni femministe e lesbiche. È il luogo dove immaginiamo e costruiamo un mondo senza la violenza degli uomini sulle donne. È lo spazio collettivo che tutte noi vogliamo difendere. La sede al numero civico 22 di Via dei Volsci a Roma fa parte della grande occupazione politica e abitativa di Via dei Volsci del 1977. Nel 1989 la sede del 22 è diventata femminista. Dopo 23 anni di presenza nel quartiere, vogliono sgomberare la sede del 22. Sono ormai 3 anni che resistiamo ai tentativi di accesso nella nostra sede di un ufficiale giudiziario mandato dal tribunale. Anzi, veramente è un'ufficiala giudiziaria. E quindi il prossimo tentativo di accesso ci sarà martedì 12 marzo, proprio martedì prossimo alle 9, ed è un appuntamento particolarmente importante perché gli ultimi sono stati particolarmente tesi, ci sono nell'aria potrebbero esserci nell'aria delle novità, quindi dobbiamo resistere, dobbiamo essere tante contro questo ennesimo tentativo di sgombero, e quindi venite martedì 12 marzo 2013 alle 9 al 22 di Via dei Volsci. Abbiamo deciso di incentrare la nostra ora di questo mercoledì tutta sull'8 marzo. Perché? Perché oggi è il 6, perché venerdì sarà l'8 marzo e quindi ritenevamo importante incentrarlo tutto, quindi fare una trasmissione monotematica. Allora, due parole al volo sull'8 marzo, perché non so se siete al corrente tutte, ma comunque è una cosa che da un po' di tempo è abbastanza diventata tra noi di dominio pubblico, cioè che la data dell'8 marzo riferita a quell'avvenimento per cui c'è stato un incendio e sono morte le operaie in una fabbrica, e che quindi l'8 marzo sarebbe in ricordo di questo avvenimento particolarmente duro, pesante, violento, è in effetti una cosa che non ha un riscontro storico, diciamo, preciso, no? Cioè non è in realtà basata su alcun dato certo, e diciamo che Clara Zetkin nel 1910 si dice avesse scelto l'8 marzo per ricordare queste operaie americane morte 2 anni prima durante un incendio avvenuto nel corso di questo sciopero. E invece sembra che a fissare il giorno della data dell'8 marzo come festa della donna fosse stata la Conferenza Internazionale delle Donne Comuniste nel 1921, per ricordare una manifestazione di donne con cui si era avviata la prima fase della rivoluzione russa. Comunque questa giornata, dopo vari tentativi fatti da Clara Zetkin, fu poi approvata a Mosca nel 1921 ed è finita giornata dell'operaia. È ispirata alla rivolta delle donne di Pietrogrado contro lo zarismo avvenuta il 23 febbraio 1917, che in effetti corrisponde nel nostro calendario all'8 marzo. Allora, al di là della storia, al di là della leggenda, al di là della memoria, ormai questa data di fatto vorrebbe rappresentare una data importante per le donne. Allora, bisogna vedere un attimo che cosa significano per noi le ricorrenze, cosa significa questa ricorrenza, cosa significa festa, cosa significa lotta, cosa significa ricordo, cosa significa memoria. At the right time, you'll be mine. You'll be mine. You'll be mine. Che l'8 marzo sia diventata, come tante altre date, una ricorrenza priva di grande significato, strumentalizzata da istituzioni, associazioni e piegata a vari interessi, da quello consumistico a quello politico-istituzionale, è ormai un dato di fatto. Bisogna vedere cosa ne vogliamo fare noi dell'8 marzo. Tanto per darvi una chicca istituzionale, no? Il Parlamento europeo in Italia, in occasione della celebrazione per la Giornata Internazionale delle Donne, fa una conferenza, convegno, eccetera, eccetera, e dedicata al tema l'impatto della crisi economica sulla parità di genere e i diritti delle donne. Allora, questo vi dà proprio il metro della strumentalizzazione di questa data, perché il sistema provoca la crisi, mette le persone sul lastrico, le donne sono quelle che economicamente pagano per prime, però poi fa il convegno sull'impatto della crisi economica sulla parità di genere e i diritti delle donne. Take a bow and say goodbye. them out of the way. Crazy he calls me. Sure I'm crazy. E allora, prima di cominciare la parte di approfondimento, volevamo ricordare che questa è la settimana dal 2 al 10 marzo, è la settima settimana di solidarietà con il popolo basco, in particolare la settimana internazionalista di solidarietà con i paesi baschi, e in seguito all'appello di Askapena, organizzazione internazionalista basca, e come femministe diciamo che non possiamo essere liberi senza di loro, e quindi libertà per i prigionieri e i rifugiati politici dei paesi baschi, e chiaramente per le prigioniere e per le rifugiate politiche dei paesi baschi. With a smile, the difficult I'll do right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love. Am I like the wind that shakes the bough? He moves me with a smile. The difficult I'll do right now. The impossible will take a little while. Allora, abbiamo incentrato il nostro approfondimento, le nostre riflessioni sull'8 marzo, su un testo che ci è piaciuto molto, su un contributo di Elena De Marchi, che è una compagna di Rho e che ha un blog che si chiama Scateniamo Tempeste, anzi scateniamotempeste.wordpress.com, con cui in pratica siamo anche quasi gemellate, diciamo, e ha scritto questo testo che si intitola Delle mille illusioni sull'8 marzo, domande alle femministe storiche da parte di una figlia del femminismo disorientata. I would like to play a piece from one of my favorite composer, and I would like to dedicate this song to one of my hero. He's up there, Oscar Peterson. e comincia così. Dell'8 marzo. Vengo invitata su internet ad una miriade di eventi per la festa della donna. Da quello sulla liberazione dei corpi, ma non troppo, perché sennò poi uno va a fare la velina, a quello istituzionale, che si proietta un film e poi si discute di pari opportunità, a quello del post porno, legato ai centri sociali e alla cultura underground. E mi chiedo, ma cosa c'è da festeggiare? Se veramente in Italia le donne godessero di pari dignità rispetto agli uomini, non ci sarebbe bisogno di festeggiare alcunché, ma siccome non godono di ciò, non c'è da festeggiare nulla, anzi, ci sarebbe da protestare, tutti i giorni però, e non solo nel sacro giorno istituzionalizzato. L'8 marzo, quindi, a che pro? La festa della donna, tuttavia, mi fa riflettere molto sulle mille illusioni di cui siamo autoalimentate nel corso degli anni e sulle bugie a cui abbiamo spesso creduto ingenuamente, perché essere donna, purtroppo, è spesso sinonimo di una sensibilità che crediamo si rispecchi in tutti. A voi che siete femministe da sempre e che magari avete maturato le vostre idee in anni più fertili rispetto ad oggi, chiedo, come chiederei ad una madre, di spiegarmi quali sono i passi per sopravvivere a questo mondo senza perdere la tenerezza. Dall'altro lato, vi chiedo di comprendermi se sono critica o scettica rispetto a tante parole d'ordine storiche e se sono polemica nei confronti del mondo che ci avete consegnato. Abbiamo ritenuto molto importante incentrare la discussione sull'8 marzo su una serie di domande tipo queste che vi racconteremo di Elena, perché la coordinamento prima di tutto è formata da compagne di varie generazioni, diciamo tre generazioni, e il confronto tra di noi è abbastanza continuo, nel senso che ci confrontiamo continuamente quando dobbiamo prendere decisioni, qualsiasi discussione dobbiamo fare. Però ogni volta il confronto generazionale viene fuori sottilmente, perché in effetti ci sono tutta una serie di domande che quelle che diciamo sono molto giovani, hanno voglia di fare, a quelle che hanno avuto un altro tipo di esperienza. C'è una generazione di mezzo, che forse quella che rappresenta Elena, che si è trovata più spaesata rispetto a quelle che sono state le eredità del femminismo. E poi oltretutto riteniamo molto importante fare una discussione di questo tipo sul femminismo ora, perché mai come in questo momento, diciamo, storico, politico, non è tanto importante fare eventi, festeggiare, musica o cose di questo tipo. L'importante è fare chiarezza su che cos'è il femminismo, su quello che abbiamo, su cosa ne pensiamo, se siamo strumentalizzate o meno, sul perché stanno tentando in maniera particolare di usare le donne in questo momento, quali sono i percorsi che ci attraversano, che cos'è il femminismo, ce n'è uno, sono tanti. Fare chiarezza su questo in questo momento è fondamentale, perché purtroppo la chiarezza politica è la base per fare delle lotte per noi e non contro di noi. A proposito, insomma, di quello che è stata, diciamo, la prima introduzione, insomma, a queste domande da parte di Elena, in realtà cioè, è una cosa, un tipo di evidenza quello che ha detto Elisabetta riguardo alle generazioni, che è stata messa comunque in luce anche durante l'incontro che facemmo proprio sulla memoria storica, memoria femminista, in cui appunto avevamo veramente avevamo la Danila Pellegrini, insomma, e a cui da lei a delle studentesse che erano dei licei, per cui abbiamo comunque, si è visto che c'era questo un sacco di domande comunque che ci si poneva rispetto a determinate cose, che comunque appunto questo gap della memoria che c'è stato non ha permesso di trovare soluzione a queste domande, quindi per questo c'è tanto questo, come dicevi tu, questo senso di essere spaesate, insomma. Un senso di spaesamento. Sì, un senso di spaesamento, e che quindi, insomma, è importante avere comunque delle figure a cui poter chiedere, che si sono vissute determinate cose, no? Quindi all I need. Allora, diciamo che Elena quindi pone una serie di domande, e la prima è dell'illusione del lavoro come emancipazione, la seconda dell'illusione del figlio unico, delle pari opportunità e dell'illusione dell'istruzione, del cuoco e della massaia, dell'illusione della libertà dei corpi, femminilità o femminismo? Dell'illusione del lavoro come emancipazione. Ci hanno detto che il lavoro fuori casa ci avrebbe permesso di socializzare e di emanciparci, che ci avrebbe rese indipendenti alla supremazia economica maschile e che quindi ci avrebbe consentito di liberarci dalla tutela di padri, padroni e padreterni. Ma che fatica! I comunisti hanno basato una buona parte della loro attività politica, almeno fino al 68, su diritti e lavoro. Poi una svolta nei movimenti ha teorizzato l'idea del rifiuto del lavoro, già anticipata da un inascoltato Paul Lafargue, che nel suo Diritto alla pigrizia rispondeva al suocero, un certo Carlo Marx, che lo spettro che si aggirava nell'Europa era quello del lavoro. Le donne hanno sempre lavorato, perché anche lavorare a casa è lavorare. tanto che i preti e le autorità civili in passato consideravano inaccettabile che dei maschi vivessero da soli, senza donne che attendessero alla pulizia dell'abitazione e alla cura di anziani e bambini. Poi dall'Ottocento, con la rivoluzione industriale, il lavoro delle donne è divenuto visibile all'esterno della famiglia e nell'intera società, perché masse di donne uscivano dalle loro case per lavorare gomito a gomito accanto alle altre. In realtà le donne già da prima lavoravano fuori casa, come le serve, le contadine, ma la novità è stata il condividere il posto di lavoro. Lavorando insieme, la faccio breve perché lo sapete meglio di me, le donne si sono organizzate e hanno cominciato a rivendicare i diritti assieme e a ottenerli. Quello femminista, con mille sfaccettature, è diventato un movimento importante in Europa, con tante idee da realizzare e con voglia concreta di farlo. Il nodo centrale della conquista dei diritti sul lavoro divenne quello di rimanere integre col proprio percorso di femministe. Come si conciliava la possibilità di ricoprire ruoli fino ad allora solo maschili e quindi anche ruoli di potere che possono altresì prevedere l'esercizio di un'autorità su altre con il rispetto delle idee basilari di uguaglianza e di riscatto sociale che accompagnavano il femminismo? One is the loneliest number, much, much. E allora, in questo meccanismo il lavoro è ancora uno strumento di liberazione della donna o è solo un modo per sbarcare il lunario? In una società in cui i ruoli sociali non sono più quelli di una volta, cioè, detto in soldoni, è molto più facile per una trentenne di oggi non avere nessuno che la mantenga, marito, fidanzato, amante. Il lavoro non è forse un obbligo e l'unico modo per sopravvivere? Insomma, quella del lavoro a volte mi sembra la più grande fregatura lasciata in eredità dalle donne delle generazioni precedenti alla mia, perché se per loro è stato un modo per ottenere un riscatto sociale, figlie di contadine divenute giornaliste, per esempio, e per affrancarsi dal potere maschile, oggi è un obbligo e una necessità, una schiavitù a cui quasi nessuna può sottrarsi, anche sotto il ricatto di contratti inaccettabili, dell'umiliazione quotidiana di stipendi molto inferiori a quelli maschili e dell'indifferenza di chi un posto fisso ce l'ha. Allora, questa domanda aperta da Elena è importantissima, anzi è fondante rispetto al momento che stiamo attraversando, perché l'emancipazione è stato uno strumento che ha portato moltissime donne in posizione di potere. Allo stesso tempo queste agiscono oppressione e violenza sulle altre donne. Quindi questo sposta la questione su un piano da cui non possiamo prescindere, cioè quello della connessione dell'oppressione di genere con quella di classe, ed è un argomento fondamentale che il femminismo dovrebbe affrontare, perché l'emancipazione deve essere vista in maniera dialettica, come anche il problema del lavoro, come anche il problema dell'indipendenza economica. L'indipendenza economica è chiaro che è fondamentale, è un momento importantissimo nel percorso di liberazione, non possiamo prescindere, però allo stesso tempo noi siamo in un contesto storico, in un momento in cui siamo sfruttate e più sfruttate come soggetti, e allo stesso tempo anche i soggetti sfruttati adesso sono in un momento di particolare sfruttamento. Quindi la nostra oppressione non può assolutamente prescindere dalle dinamiche di classe. It was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came a ringing up like Christmas bells and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll wear it till the night comes. Una bella invenzione di questi anni è quella delle pari opportunità. Mi sembra di vivere nelle aree protette del WWF. Il punto delle pari opportunità e dell'illusione dell'istruzione. Oh, won't you stay? We'll put on a day. There's a sun show every second. Of today, and the streets are paved with passers-by, and pigeons fly, and papers lie, waiting to blow away. Allora, scusatemi, continuando. Quindi dicevo, mi sembra di vivere nelle aree protette del WWF. La cosa più impressionante è che non ci sia stata una rivolta di fronte a questa questione delle pari opportunità da parte di nessuno, e che anzi molte donne che contano abbiano difeso questa trovata. Invertiamo un po' la situazione, facciamo le quote azzurre, facciamole nel lavoro di cura. Se per i lavori più qualificati invochiamo le quote rose, perché non invocare le quote azzurre nel lavoro di servizio? Hours by night, by candlelight, by jewel light, if only you will stay. Pretty baby, won't you wake up? It's a Chelsea morning. Le pari opportunità mi indignano, perché se ci fossero le pari opportunità nella realtà e non su carta, le donne probabilmente sarebbero presenti in ogni settore chiave della società, naturalmente, senza bisogno di artifici. Essendo circa la metà della popolazione mondiale, non essendo mai riuscito nessuno con certezza a provare che siamo meno intelligenti, dinamiche, creative dei maschi, dovremmo stare dappertutto. Mi chiedo d'altro canto perché le donne stesse siano entusiaste di quote rosa e simili, invece che lottare per avere pari dignità ed essere considerate per le loro abilità e capacità e non per percentuali. All men are false, says my mother. They'll tell you wicked love and lies. The very next evening they'll court another. Leave you alone to pine and sigh. E infatti questo delle pari opportunità, delle quote rosa, delle quote privilegiate è un argomento estremamente spinoso, perché non c'è niente di più ghettizzante delle pari opportunità, delle quote rosa. Tant'è vero che è uno strumento nato negli Stati Uniti che si chiama discriminazione positiva ed era stato messo in atto soprattutto nelle università, nel percorso scolastico, nei riguardi delle nere e dei neri. E questo che cosa ha portato? Ha portato alla promozione personale di tutti quelli e di tutte quelle che hanno accettato i meccanismi del sistema, e in questo caso i meccanismi maschili, sono diventate più realiste del re, si sono integrate con quel concetto di integrazione che è simile a quello che pretende questo sistema dagli immigrati e dalle immigrate, e si sono messi al servizio del sistema. Quindi le pari opportunità sono, e le quote rosa sono, un grande strumento di manipolazione della lotta delle donne. No, ma in fondo questo discorso, insomma, che ha appena fatto, poi voglio dire, è strettamente collegato a quello iniziale, nel punto iniziale in cui, diciamo, Elena si pone il problema del lavoro e dell'istituzione, quindi dell'emancipazione, insomma, perché comunque anche qui le quote rosa in ogni caso portano semplicemente a un'emancipazione sociale di alcune. Quindi, nonostante appunto la questione discriminante, ma comunque anche le poche che accedono a queste quote rosa vengono solamente inglobate all'interno del sistema, cercando di puntare fondamentalmente al fatto che ci sia una pacificazione in qualche modo, certo, sociale. Quindi insomma e niente, quindi volevo solo dire questa le cosa. Le donne delle classi sociali elevate rivendicano il diritto al loro spazio, le donne delle classi subalterne devono praticamente mettersi al servizio del sistema. Thank you. E ora andiamo avanti ponendoci la domanda dell'illusione della libertà dei corpi. E dice: avete discusso a lungo di libertà dei corpi, o meglio di liberazione del corpo, contro i meccanismi di una società vecchia che vi chiedeva di fare da le madri o le prostitute, le sante o le spudorate. Vi siete ribellate e avete liberato voi stesse e di conseguenza noi. Solo che adesso qualcosa ci è sfuggito di mano. Sono libere di fare quello che vogliono, soddisfano realmente le loro passioni e inclinazioni, o si umiliano e umiliano il loro corpo di fronte al potere? Continuo. Ora questi stereotipi si presentano sotto altre forme, è innegabile. L'immagine della donna voluttuosa è legittimata ed è doverosa, perché se non sei gradevole di aspetto, rassicurante o dall'altro lato provocante, persone lontane dall'estetica, come disse qualcuno, non conti niente. E anche essere belle è associato a determinati canoni imposti dallo sguardo maschile, che guarda caso prevedono fisici con tutti gli attributi legati al consumo sessuale ben gonfiati, e non un bel sorriso, delle belle mani, eccetera eccetera. Ecco, dobbiamo capire in quale modo i maschi e la cultura maschilista e dominante esercitano un potere sul corpo femminile, tanto da confondere le nuove generazioni di donne, che si sentono in un qualche modo sbagliate e non accettate se non rappresentano quel cliché. E rispetto a questa domanda dell'illusione della libertà dei corpi, si aprono scenari molto importanti in questo momento. Che cosa è successo? Che noi abbiamo combattuto tanto negli anni 70, io perché faccio parte di quella categoria della terza generazione. Senior. Usiamo un termine maschilista, non c'è, invece di senior. Allora, me lo inventerò. No, abbiamo combattuto tanto per evitare qualsiasi categorizzazione, qualsiasi colpevolizzazione, qualsiasi divisione, qualsiasi giudizio di tipo morale. Bene, adesso che cosa è successo? Che un certo femminismo socialdemocratico, in maniera estremamente pesante, in maniera estremamente avvilente, ha riproposto la categorizzazione delle donne per bene e donne per male. Sono state riproposte in maniera forte, strumentalmente, perché erano importanti e servivano per equilibri politici. Dopodiché sono state strumentalmente portate avanti per contribuire a un controllo sempre maggiore dei corpi. E che cosa è successo? Che si sono formate nuove categorie impostate su degli stereotipi leggermente diversi, ma si sono riproposte in maniera molto forte. Per cui adesso che cosa è successo? Che la sessualità in questa società viene vissuta in maniera ambivalente. Cioè, da una parte si vogliono riproporre i dualismi in funzione del controllo sociale, quindi un'altra volta le sante e le puttane, per cui le puttane non possono fare delle scelte consapevoli, delle scelte autonome, delle scelte non possono autodeterminarsi, per comunque le puttane in ogni caso si devono sempre pentire, si devono sempre chiedere aiuto, sono sempre dei soggetti che si devono porre in maniera critica rispetto a se stesse. E allo stesso tempo il sesso viene posto da questo sistema come trasgressivo e rivoluzionario, e viene offerto come valvola di sfogo delle insoddisfazioni ed è un grandissimo mercato. Quindi queste due cose messe insieme fanno un cocktail perverso e le donne sono diventate pesantemente oggetti. Allora, passiamo all'ultima domanda che si pone Elena, ossia femminilità o femminismo, le parole d'ordine. A quelle che ci dicono che il termine femminista va sostituito con l'aggettivo femminile, rispondiamo che non basta essere femminili, perché una donna femminile può anche essere contraria alle rivendicazioni femministe, come mi sembra che molti cortei e manifestazioni delle ultime settimane hanno dimostrato, dividendo le donne per bene da quelle per male. Care femministe storiche, questa mia è un invito a non abbandonare mai le giovani femministe e le giovani in generale. Avete molta più esperienza di noi e noi abbiamo molto da imparare, ma vorremmo imparare con voi e non solamente da voi. In questa società che cambia in fretta ma non in meglio, non abbassiamo la guardia ora. Positions as the cameras roll. You'll be the guy, I'll be the girl, watching ourselves all cinema. Cinema. Now we cut to the girl. Oh, vi ricordiamo comunque i nostri indirizzi, coordinamenta@autistiche.org per scriverci, coordinamenta.noblogs.org è il nostro blog e tutto quello che non abbiamo detto stasera, che è tanto, ci sono anche tante altre domande che non sono state dette, prese in considerazione, sviscerate, perché sono altrettanto interessanti e molto interessanti, le trovate sul nostro blog, perché caricheremo questo intervento e lo troverete lì. Positions as the cameras, the camera. You'll be the girl. proposito di tutto il discorso che abbiamo fatto, in effetti ci siamo dimenticati di dire una cosa che volevamo dire, che è molto importante, e cioè che cosa significa mantenere nel femminismo la discriminante antifascista, perché un certo tipo di femminismo socialdemocratico che si presenta come tale ha tolto già da qualche anno la discriminante antifascista dal programma, dalle parole, e addirittura ha tessuto legami con soggette provenienti da ambienti che sono di chiara matrice fascista. Questo per noi è inaccettabile, l'antifascismo è una discriminante. E non è soltanto una posizione ideologica, ma è proprio deriva dall'analisi che noi facciamo della costruzione del femminile, di quello che significa il femminile nell'ideologia fascista. E le compagne del collettivo femminista Medea di Torino, dato che il 15 c'è la manifestazione in ricordo di Dax a Milano e molte anche di noi si organizzeranno per andarci, comunque dato che c'è questa manifestazione, le compagne del collettivo femminista Medea hanno fatto un dossier antifascista che si intitola Fare le italiane, e l'hanno fatto proprio in ricordo di Dax, e parlano della costruzione del modello femminile fascista e del perché la discriminante antifascista è una necessità. È un documento che potete trovare sul loro blog medea.noblogs.org. E adesso parliamo di noi, dell'iniziativa della coordinamenta per l'8 marzo. Noi l'8 marzo alle 12.30 saremo al Pratone dell'Università della Sapienza, o meglio di quel che rimane del Pratone dell'Università La Sapienza, per pranzare insieme, perché ci vedremo dalle 12.30 in poi, per parlare, discutere, confrontarci e per costruire pratiche di lotta. Ma su che cosa? What I am is what I am, you what you are, oh what? What I am is what I am. lo smascheramento, la decostruzione, lo scardinamento dei ruoli sessuati e eteronormati passa necessariamente attraverso lo smascheramento, la decostruzione e lo scardinamento dei ruoli gerarchici, autoritari e classisti su cui si incardina questa organizzazione sociale. Nella scuola, al lavoro, nella medicina, nel controllo dei comportamenti con gli esperti, esperti, in ogni momento della nostra vita. Ma anche nelle guerre neocoloniali, dove le potenze occidentali hanno la pretesa di ribadire gerarchie tra i popoli. La borghesia e il maschio esercitano il controllo sui codici, sui canali di comunicazione, sulla modalità di decodificazione e interpretazione dei messaggi, sulla cultura tutta, e noi ci troviamo spesso nella condizione di essere lette e parlate dalle nostre stesse parole, di esserne portavoce di una realtà e di valori che sono contro noi stesse, senza comprenderne immediatamente il fine e la funzione. Da qui la necessità per il femminismo di una pratica sociale antagonista, perché liberazione dal capitale e dal patriarcato significa produzione di festa e di autorealizzazione. Da qui la necessità di rigettare i codici linguistici del potere che costituiscono la rete essenziale del controllo sociale. Da qui la necessità di costruire un nostro linguaggio, una nostra prassi che investa tutti gli aspetti della vita, dall'apprendimento del lavoro, dai linguaggi quotidiani, dall'eros, dalla capacità di sognare. Rivoluzione totale. Rivoluzione totale fuori e dentro di noi. Vi aspettiamo per pranzare insieme, parlare, discutere, confrontarci, per costruire pratiche di lotta alle ore 12.30 al Pratone dell'Università La Sapienza, l'8 marzo, che è venerdì. Volevamo ricordare anche un altro paio di appuntamenti. Uno riguarda sempre l'8 marzo, ma questa volta a Napoli, intitolato Il protagonismo femminile nelle rivolte egiziane tra violenza sessuale e organizzazione della protesta. E alle ore 17 all'aula Mura Greche, il Palazzo Corigliano, a Piazza San Domenico Maggiore a Napoli, diciamo sarebbe orientale di Napoli. E ci sarà anche un collegamento con dall'Egitto, insomma, e, intitolato Senza donne non c'è rivoluzione. Quest'ultima invece è una comunicazione sul presidio permanente contro l'inceneritore ad Albano. Il TAR del Lazio, con un provvedimento urgente monocratico, ha sospeso la determina della Regione Lazio che sostanzialmente imponeva al consorzio Coema, composto da Ama, Acea e Colari, di iniziare la cantierizzazione e i lavori per la costruzione di un gassificatore nella frazione di Cecchina nel comune di Albano Laziale, che aveva presentato ricorso. Il presidente della prima sezione terra del Tribunale Amministrativo, Lindia Sandulli, ha quindi fissato per il 28 marzo la Camera di Consiglio per la discussione della sospensiva. Fino a quella data, quindi, i provvedimenti sul gassificatore risultano bloccati. E venerdì il Consiglio di Stato decide sul decreto Clini. Quindi, dai con la mobilitazione nei territori, come il NOTAB, come contro la discarica di Roncigliano, come per la tutela dell'ambiente, la coordinamenta si muove anche su questi piani. Per concludere, giusto volevamo per ricordare appunto quindi l'iniziativa del CAU, il collettivo autorganizzato di Napoli, universitario, studenti autorganizzati, il collettivo autorganizzato universitario di Napoli, per l'8 marzo, senza donne non c'è rivoluzione. Volevamo leggere un pezzettino che dice: se ad un uomo si riconosce almeno l'onore delle armi, le donne rivoluzionarie sono solo puttane, pazze, isteriche, che vanno ricondotte alla ragione, che vanno corrette e rieducate. E allora, dalle puttane, pazze, isteriche, tanti auguri di lotta e ci vediamo l'8 marzo. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this. This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Oh, honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. Got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. They must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life. Solution.